stasera t'ha piena di dolcezza, pare che non esistano dolori, un venticello come una carezza smuove le piante e fa baciare i fiori. Nina, se voi dormite, sognate che io ve bacio, che io addorcisco il sonno cantando adagio adagio. L'odore dei fiori se confonde col canto mio, se sperde fra le fronde. Quando me godo dalla loggia mia quelle sere d'agosto tanto belle, che il cielo troppo carico de stelle se pia il lusso de buttarle via, a ognuna che ne casca penso spesso alle speranze che se porta appresso. Perché la gente immagina sul serio che chi se sbriga chiede qualche cosa finché la striscia resta luminosa, la stella gli soddisfa il desiderio. Ma se se smorza prima, buonanotte, la speranzella se ne va a fa fotte. Ieri sera, arpiccio, in via d'esperimento, guardai la stella e chiesi: bramerei di ritrovarmi a tu per tu con lei, come 30 anni fa, per un momento. Come starà Lullù? Che fine ha fatto la donna che ho più amato nella vita? Allora chiusi gli occhi e ripensai alle gioie, alle pene, ai rimorsi, al primo giorno, quando ci discorsi, a quella sera che ce litigai, e rivedevo tutto a mano in un nebbione più che mai lontano. Ma nel ricordo debole e confuso, ecco che m'è riapparsa la biondina, quando venne da me quella mattina, giovane, bella, dritta come un fuso, che mi diceva sottovoce: è tanto che sospiravo di tornarti accanto. T'ho incontrata, ma non mi ricordo quando, mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Presso a poco, t'ho guardato e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, presso a poco. Si vediamo, io ti ho chiesto quella sera, tu de corsa sei venuta a star con me. Il fatto mi pareva così vero che feci fra di me. Questa è la prova che la gioia passata si ritrova solo nel labirinto del pensiero. Qualunque sia speranza, è un brutto tiro dell'illusione che ci pia in giro. Però, ci fu la mano del destino. Perché dopo nemmanco un quarto d'ora giro la testa e che te vedo? Vedo una signora che andava a spasso con un cagnolino, una di quelle bionde ossigenate che per lo più ricicciano d'estate. Chissà, pensai, che pure sta grassona, con quel popo di roba che gli abballa, non sia stata carina. E nel guardarla, trovai che assomigliava a una persona, specialmente il nasino per l'insù. Mi ricordava quello di Lullù. Era lei. Non lo so. Da certe mosse, dalla maniera di guardare la gente, avrei detto è Lullù sicuramente, ma nel dubbio che fosse o che non fosse, richiusi gli occhi e ritornai da quella che avevo combinato con la stella. Giovane, bella. Me so magnato il fegato e quello che c'è intorno. Amore, amore, amore, amore, amore, sì, amore un corno. E costa amore utopico, sai che ci ho qua cambiato. C'avevo un bel lavoro

Frattanto, dalle altre porte e per il cortile tutte le famiglie, in camicia, in sottabito, coi pupetti in braccio e strascicando le valigie per le scale, andavano correndo verso i rifugi. E sopra le loro voci già si avvicinavano i boati della flotta aerea, con un seguito di spari e di lampi e di scoppi pari a un bengala formidabile. Si sentivano le famiglie d'intorno chiamarsi. Qualche ragazzino si sperdeva, qualcuno, atterrito, correndo, inciampava e cadeva. Certe donne urlavano e Nino rideva a questa paura universale. Però, quelle nottate in cantina non gli dispiacevano del tutto. Anche perché laggiù s'aveva l'occasione di incontrare certe belle ragazzette del vicinato che, de solito, la gelosia delle famiglie non lasciava uscire facilmente. Però, come arrivava nel sotterraneo, lui non mancava mai di ostentare il proprio schifo. E tenendosi presso l'entrata, col dorso appoggiato contro la parete, in una posa sprezzante, faceva sapere all'uditorio, soprattutto ai ragazzette, che lui se infognava là sotto unicamente per cane suo. Ma pensa che lui delle bombe se ne fregava. Ah sì, le bombe gli mettevano allegria, meglio dei petardi. E magari se fosse trattato d'allarmi veri. Allarmi di Roma erano tutte commedie, già che era risaputo che per patto segreto de Churchill col Papa Roma era decretata città santa e intangibile, e bombe qua non ci potevano cascà. E dai, non gli da retta Roma, che t'hanno coglionato, sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi gli dedicano che un morto si è ammazzato, allora è segno certo che l'hanno assassinato. Voglio cantare così, fior de grano, che fai non me rispondi, me canti uno stornello, lo vedi chi è il padrone, insorgi via il cortello e andiamo dagli Roma, chi se fa pecorone il lupo se lo magna, abbasta uno scossone, è inutile che provochi, a me non me ce freghi, la gatta fresciolosa fece i figli ciechi, sei troppo sparaglione, con te non me ce metto, io batto un'altra strada, io c'ho pazienza, aspetto. Voglio cantare così, fior de rughetto, una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa, tenendo per mano Giuseppe. Faceva un tempo sereno e caldissimo. Provenivano dallo scalo merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d'orchestra metallico e ronzante. Giuseppe levò gli occhi in alto e disse: «Leoplani!» E in quel momento l'aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d'intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. Ida sentì che scivolava verso il basso, su un terreno rimosso che pareva arato e che fumava. Nella caduta dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni. Verde, arancione e rosso vivo. Al cessato allarme si ritrovarono dentro un'immensa nube che nascondeva il sole e faceva tossire col suo sapore di catrame. Si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello scalo merci. Sull'altra parte del viale le vie di sbocco erano montagne di macerie. Si sentivano delle urla e dei nomi. La vocina di Giuseppe ripeteva a Ida una domanda incomprensibile in cui le pareva di riconoscere la parola casa. Ma era difficile. Era difficile riconoscere le strade familiari. Finalmente Ida ravvisò intatto il casamento con l'osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Giuseppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a divincolarsi dalle sue braccia e a scendere a terra, e correndo cominciò a gridare «Bi! Bi! Bi!». Il loro caseggiato era distrutto. Ne rimaneva solo una quinta spalancata sul vuoto. Cercando con gli occhi in alto, al posto del loro appartamento si scorgeva un pezzo di pianerottolo. Da basso, delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva. Là sotto dovevano essere tutti morti. E in mezzo a tutto questo la vocina di Giuseppe continuava a chiamare B, B, B. Blitz, il cane, era perduto. Insieme col letto matrimoniale, il lettino, e il divano letto, e la cassa panca, i libri, le pentole di cucina, le maglie d'inverno, i 6 chili di pasta e quanto restava dell'ultimo stipendio del mese riposto in un cassetto della credenza. Andiamo via, disse Ida, tentando di sollevare Giuseppe fra le braccia, ma lui resisteva e si dibatteva. Trascinato via di peso, non cessava di ripetere quell'unica sillaba con voce convulsa per i singulti. Andiamo via, ripeteva Ida, ma veramente, veramente, non sapeva più dove andare. Roma nuda, scusa se perdo lacrime per strada, mal che vada, fa finta che so gocce di rugiada. Sta solo dentro al letto, vado randaggio in qualche vicoletto, cammino a piedi scarsi, almeno finché tardi, dormi e vedrai che manco me sentirai. Roma nuda, non mi puoi dire no, so disperato, casa è vuota, c'era una donna che m'ha rovinato, mi basta sta così all'angoletto de sta strada. Roma nuda, Roma romanuda, Roma nuda, Roma secca. Il cielo della città s'è sgombrato di nuvoli. Un sole cocente ristagna. Abbaginate le strade con la polvere che riempie interstizi e fa clessidra degli vicoli. È avvenuta la famosa congiunzione massima di Saturno e Giove. Dicono gli astrologi che avremo mutazione di regni ed esaltazione della religione. Il sole, invece, il divino Pan, lui regna e incoccia. Scampo ognuno d'azzardi allo scoperto a uscire in pieno giorno. Particole de luce scagliano enti nell'occhi e la testa te sen pietra. La pazzia congiunta alla possibile insolazione. E ristagna la luce dritta all'ama di cortello. Si inframmette tra le crepe dei muri. Abbrusca la fascia de incauto sortito fora. Niente acqua dalle fontane. Acquedotti magra. E la lingua dei cavalli ciondola inerte. Nessun movimento d'uccelli. Fuggiti a stormo in qualche foresta appena che le penne dell'ala han presentito la quiete maligna. Birocci fermi negli slarghi, lucertole appese inerti ai muri. Non più ombre, chiaroscuri, angoli gelosamente racchiusi, ma un mondo spianato ed esposto, squadernato come una guardrappa. Mi viene la malinconia secca, quella delle cose ferme per sempre. Un fuoco statico consuma la vita e fa girone infernale della nostra stagione umana. Quella voglia verde di sperimentare, godere e piagne. L'inferno, se esiste, è paralisi, fissazione infinita dei corpi. Sì, è vero che giù nell'inferno c'è sto calore dove mo prega il Padre Eterno e non c'è annà. Perché? Perché? La creazione del mondo. L'anno che Gesù Cristo impastò il mondo, che per impastarlo già c'era la pasta, verde lo forse fa grosso e ridonno all'uso d'un cocomero de tasta. Fece un sole, una luna e un mappamonno, ma delle stelle poi di una catasta. Su, uccelli, bestie in mezzo e pesci in fondo, piantò le piante e dopo disse abbasta. Mi scordavo di dire che creò l'uomo e con l'uomo la donna, Adamo ed Eva, e gli proibì de non toccaglie un pomo. Appena che mangià le bevitudi, strillò per Dio con quanta voce aveva: «Omini da venì, siete fottuti!» Se sono sparati a via Merulana al 219 sulle scale, nel palazzo delle pesci cani. Al 219. Un fiotto di sangue incuriosito, forse angosciato, gli inondò il ventricolo di destra. E poi ricadde subito in quella tale specie di sonnolenza lontana che era in lui la maschera del senso d'ufficio. Intanto gli entrò nella stanza il capo della investigativa. «Ci andate voi in gravallo a via Merulana? Vedete un poco, una fesseria, m'hanno detto!» «E poi stamattina, coccellata a fare della marchesa di Viale Liegi, e poi chillo pasticcio a Cavicino, alle botteghe oscure, e poi chillo buche violette, e due cognate e tre nipote, e poi ci avvimo da pelare la coda della frenosa, e poi, si ne coppa la capa. Per cui, facite mo favore, iateci voi, iammoci!» E come a un tacito ordine del commissario capo, due agenti lo seguirono. Erano Gaudenzio, noto alla malavita come Er Biondone, e Pompeo, detto anche lo Sgranfia. Davanti al Viminale presero il tram direzione San Giovanni, sicché in una ventina di minuti raggiunsero il civico 219. Il palazzo dell'oro o dei pescecani che fosse era là. Cinque piani, più il mezzanino, intignazzato e grigio. Una di quelle costruzioni degli inizi del secolo che ti infondono, solo a guardarle, un senso d'uggia e di canerinizzata contrizione. Il contrapposto netto del color di Roma, del cielo e del fulgido sole di Roma che in gravallo, si può dire, conosceva col cuore. Davanti al casermone color pidocchio una folla, circonfusa ad una rete protettiva di biciclette, donne, sporte e sedani, un esercente d'un negozio di là, col grembiule bianco, un uomo di fatica, e questo col grembiule rigato, e col naso in veste in color d'un meraviglioso peperone, portinaie, domestiche, ragazzine delle portinaie che gridavano «A Peppi!», maschietti, col cerchio, un attendente, saturo d'arance, prese in una sua gran rete dalla quale spuntavano i ciuffi di due finocchi, 12 o 15 trapper di giorno e vagabondi vari, diretti in nessun luogo, come sa, sono vagabondi, due o tre funzionari grossi che a quell'ora matura agli alti gradi avevano appena disciolto le vele, diretti ciascuno al suo ministero. Un portalettere in stato di estrema gravidanza dava della sua gran borsa in culo a tutti che borbottavano «mannaggia» e poi ancora «mannaggia, mannaggia» uno dopo l'altro, mano a mano che il borsone perveniva ad urtarli nel di dietro. Un monello, con serietà tiberina, disse: «Sto palazzo? Trento c'è più oro che monnezza!» In gravallo, scortato dai due agenti, si fece largo. «Ah, polizia! Ah, maschie, fa passare lo Sgranfia! Addio, Pompè!» «Che l'hai agguantato, il ladro?» «Zitti! Zitti, c'è il biondo!» In gravallo raggiunse la portineria, un'altra piccola folla, gli inquilini dello stabile, e seguito dai due agenti e dalla portinaia e dalle voci di tutti, polizia, salì al terzo piano, scala A, dove abitava la derubata. Il fattaccio era occorso un'ora prima, poco dopo le 10. A un'ora incredibile, la commissà. Giù seguitò la gran ciarla. Le voci spiegate, addirittura canore delle femmine venivano emulate da qualche trombone maschio e addirittura sopraffatte. Era la ragione della folla che cominciava a raccogliere i trefoli delle testimonianze iniziali dei... Giuro che l'ho visto! Si trattava di un furto, più precisamente di una rapina a domicilio manu armata. Un leone rinchiuso in una gabbia intervedé da un finestrino aperto er cielo er mare a ripensò al deserto e al tempo che sdraiato sulla sabbia liberamente senza tante noie passava le giornate con la moglie e a ripensò al tramonto quando pare che il sole rosso come il fuoco scivoli giù dal cielo e a poco finisce che se smorza dentro al mare. Oh, per chi patisce di malinconia, questa è l'ora più peggio che ci sia, eh? Ero libero allora, ero felice, barbottava scocciato. E mo bisogna che stia rinchiuso e faccia la carogna sotto le granfie di una domatrice che specula su tutto e che se serve puro della ferocia delle berbe. E se mi volesse veramente bene, non mi farebbe fatta altre sciocchezze a furia dei bacetti, dei carezze, da lisciamenti e di tant'altre scene. La solita politica. D'altronde, questo è il vecchio sistema delle donne. Erdomatore è peggio. Io solamente conosco la ferocia del cristiano quando mi insegna con la frusta in mano a sponare il cerchio e a salutare la gente. Opla! Nerone! Un altro sarto, ale! E bella maniera di trattali re. Ho detto re, purtroppo. Ma oramai mi accorgo che divento piano piano sovrano come il popolo sovrano, che viceversa non comanna mai. Guai se non faccio quel che vogliono loro, guai se mi impunto, guai se non lavoro. Tra le altre cose, ha scritto sul programma che un giorno ho divorato un domatore. No! Non è vero affatto, è un impostore. Lo posso in ammazza all'ombra, sciamma a reclame che se fa sto micco. Per venne più bietti e fasse ricco. E in questo non c'è sta la convenienza. Fintanto che le fiere serviranno a far guadagnare all'omini, saranno, sì, come le fiere, de beneficenza. È un'infamia, un sopruso, una vergogna. Bisogna fare uno sciopero, bisogna. Una scimmia che intese sto discorso gli disse: ma perché non fai in maniera di fare un complotto assieme alla pantera? Alla iena, alla tigre, al lupo e all'orso? Perché non cerchi di riavere la stima, l'indipendenza che ci avevi prima? Tu che sei re, con quel nome che c'hai, non t'hai da mettere a fare i giochi e a fare le piroette come un artista di caffè e concerto, come un vecchio pagliaccio di mestiere? E che speri? D'essere fatto cavaliere? No, amico, no. Qui è questione d'amor proprio. Finché ste buffonate le fo io, che so una scimmia, è il naturale mio. Vedo un uomo, lo studio e lo ricopio, eh? Per questo sono sicura di farci una bruttissima figura. E lo stesso succede al pappagallo, che appena che sente una parola che dice nomo, gli si incastra in gola e si spreme e si sforza per rifarlo. Discorre come lui, ma non c'è uccello più scocciante e più stupido di quello. E siccome la scimmia dalla rabbia aveva alzato un po' di più la voce, tutte quelle altre bestie più feroci fecero capocciera dalla gabbia. Bene, brava, strillavano. Ha ragione, viva la libertà, morta al padrone, zitti, disse il leone, che capiva che quello era il momento più propizio per pia la parola e fa il comizio. È inutile che dite abbasso e viva, le ribellioni fatte con gli strilli si rimettono a posto con tre squilli. Bisogna far sul serio e a rivoltasse contro sto sfruttatore prepotente, e questo lotteremo solamente con l'organizzazione della classe, appena che se saremo uniti con le bestie di tutti i partiti. Ma prima che incominci la battaglia, se fra di voi ci fosse un animale che per qualche ragione personale vorrei sta sottomesso a sta canaglia, che se faccia scerfiato, parli avanti, senza che poi ci rioli come tanti. Un ciuccio che ci aveva l'incombenza di portare la carnaccia nel serraio, capi? Il ladino. e disse con un raio che aveva già perduta la pazienza. Io, fece, sarò il primo a dargli addosso, lo possino scannarlo a mare rosso. Io, dopo tutto, sono lavoratore, fatico, soffro assai, ma quel boiaccia come mi ricompensa? A carci in faccia, in che modo mi paga? Col tortore. Poi mi ammazza e mi scortica per via che fa il tamburo con la pelle mia. Defatti, certe sere, quando sento i rataplan che fanno gli soldati, ripenso agli somari scorticati che sono serviti a tutto il reggimento. Sarò paziente, sì, ma non sopporto che me la suoni pure dopo morto, per cui mi associo nella ribellione. Ma prima voglio avere la sicurezza che me levate il basto e la capezza. E se qui si tratta di trovare un padrone che me la crocchia come quello vecchio, resto con questo e buonanotte al secchio. La lupa disse: e io che ho dato il latte al primo re di Roma, e per via mia, sebbene o male c'è la monarchia. Ma l'uomo invece quante me ne ha fatte, m'ha chiuso in gabbia e ha messo fuori il detto che magno come un lupo. Beh, rispetto, doveva avere un riguardo per la balia del primo re che fece Roma, e invece, ma questo, disse l'orso, non fa specie. Puro quelli che fecero l'Italia, mo campeno sonanno l'orchenetto, con le ferite, le medaglie in petto. Io, disse allora il cane, non lo nego, gli so fedele, affezionato, e come, ma siccome me tratta come un cane, me ne frego. De piammeli carci da stingrato, Mariotto, pure io, Mariotto, mora ammazzato, e farai bene, gli ha risposto il gatto. Io, che sono animale indipendente, m'affeziono alla casa solamente, ma no al padrone che non stimo affatto. O monarchico, o prete, o socialista, l'uomo è stato e sarà sempre egoista. E io, disse la tigre, io c'ho il dolore che lui mi paragoni e mi confonda il cuore mio col cuore della donna che ammazza il fio per salvar l'onore. Sono tigre, è verissimo, ma io non assassino mica il sangue mio. Non posso fare la rivoluzionaria perché sono la regina degli uccelli, strillò l'aquila nera. Io, come quelli che stanno in alto e vivono per aria, vedo le cose sempre tale e quale. Purtroppo, disse l'orso, questo è il male. In alto non si sentono i lagni, in alto non si vedono le pene. Da quell'altezza lì tutto va bene. Poveri e ricchi, tutti sono compagni. Bisogna scegne per conoscere a fondo tutte le birbonate de sto mondo. Ma che diavolo volete che mi imparti? Barbottava la iena clericale. Dell'uomo e del benessere sociale. Io vivo solamente sui morti. E a chi mi dice io soffro, gli rispondo che la felicità sta all'altro mondo. Un povero maiale ammaestrato che spesso entrava in gabbia col leone per far convincere il pubblico coglione che il re della foresta era domato, se fece sci un rumore dalla gola, domandò scusa e prese la parola. L'idea d'estuguaglianza non può reggere. Voi direte che io pio le difese della moderna società borghese che mi stima, mi ingrassa e mi protegge, e che con la scusante del prosciutto permette che mi ficchi dappertutto. Oh no, no, non è per questo. Io dico, se domani vi ha messa l'uguaglianza, diventate tutti compagni. Sì, ma non pensate che il cane vorrà vedere tutti i cani, il sorcio vorrà vedere tutti i sorci, e io, questo si intende, tutti i porci. Io benedico l'antenato mio, fischiò il serpente, che minchionò l'uomo quando gli disse che mangiando il pomo sarebbe diventato uguale a Dio. L'uomo, sempre ambizioso e interessato, lo prese e già rimase buggerato. Ma lui, che c'ha le scuse sempre pronte, quando il Dio, per punirlo del peccato, gli disse che se fosse guadagnato il pane col sudore della fronte, fece l'occhietto e disse alla compagna: se non trovi chi suda, non se magna. Apposta. Apposta c'è chi resta a bocca asciuta e chi mangia per quattro. Al proletario che suda assai gli manca il necessario, mentre invece il padrone che lo sfrutta senza sversare una goccia di sudore magna, fuma, se intoppa e fa il signore. È questo è il vero peccato originale, strillava il coccodrillo socialista. Morte alla borghesia capitalista, evviva la repubblica sociale, evviva. E chi lo sa che avrebbe detto se non si fosse inteso un organetto. Era l'avvisatore che suonava una marcia qualunque solamente per ridunar più pubblico, e la gente chiamata dal motivo ci imboccava zitti. E a stasera, disse la pantera, e tutti gli risposero a stasera. Numero di stanotte a chi hai stregato il cuore, la verità fa male. Lasciami sta visione per sperare. Ding dong, ding dong, amore. 100 campane stanno a dite no, ma tu, amore mio, sei mai lasciato ancora nullo di. No, nullo di, non parla, sei una donna o una strega, chissà. La speranza per quel sì. Ding dong, ding dong, amore. Pure le streghe m'hanno detto no. Ma tu, amore mio, sei mai stregato? Dimmelo, quel sì.